giovedì 26 settembre del 2013. Questa è Radio Onda Rossa dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Chi se la sente può contribuire a farla vivere, come ad esempio sottoscrivendo sul numero di conto corrente postale 61804001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via De Volsci 56 00185, Roma. Oppure basta andare sul sito internet della radio, sulla homepage c'è l'opzione sostieni e lì troverà la modalità PayPal. Siamo all'appuntamento con Visionari, con qualche minuto d'anticipo, data la enormità, il numero degli ospiti. E per quanto riguarda i riferimenti, la scaletta di oggi la trovate sul sito della radio che ho appena menzionato, alla voce trasmissioni Visionari. Lì trovate gli ospiti della puntata, le uscite in sala di oggi, giovedì 26 settembre. I nostri suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia tra festival, rassegne e proiezioni. E più giù il link per riascoltare la puntata precedente e tutte quelle del 2013 e 2012. Per inviarci posta elettronica l'indirizzo è visionari@ondarossa.info. E poi c'è, oltre alla pagina sul sito internet della radio, c'è anche la pagina Facebook di Visionari. Si comincia parlando di film in uscita oggi, film italiani in uscita oggi o già in programmazione. Il primo collegamento è con Sara Zavarise, regista del cortometraggio Nuove cittadine, che è visionabile sul sito internet di Zalab, che è zalab.org. Sara, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, un saluto. Allora, raccontaci un po' di questo cortometraggio che, come altri che hanno preceduto il tuo, si costituiscono in piccoli cortometraggi documentari di pochi minuti su cui poi su un argomento a tematica sociale, a volte legato anche a delle campagne. Il tuo di cosa tratta, Sara? Allora, il mio praticamente è sulla violenza sulle donne. Sì. E in pratica però è uno sguardo sulle donne migranti particolare, perché è nato da un progetto, che è un progetto portato avanti da Differenza Donna, sulla percezione della violenza e della discriminazione tra donne migranti marocchine di prima e di seconda generazione. Legato a questo, praticamente io ho realizzato un corto documentario per Zalab in cui si racconta come le donne migranti in Italia percepiscono il fenomeno della violenza e della discriminazione, quindi sia violenza di genere, ma in un certo senso anche una discriminazione data dal non sentirsi cittadine italiane e quindi essere in questo modo più stigmatizzate rispetto a quelle che sono poi donne italiane invece che subiscono violenza. Sara, quante persone, quante donne hai sei riuscita a contattare? Guarda, nella ricerca sociale sono 50 campioni di donne cercati, però invece io come documentarista mi sono focalizzata su una ragazza che non ha per prima subito violenza, ma sta facendo una ricerca sociale sulla violenza, quindi è una ragazza di seconda generazione italo-marocchina che intervista delle donne che hanno subito violenza e dentro di sé si sente in qualche modo un ponte fra le due culture, quella italiana e quella marocchina, e cerca di trovare delle motivazioni, delle spiegazioni o un modo per poter, con il suo background e il suo aiuto, la sua ricerca, il suo lavoro, essere utile a donne che hanno subito violenza. E quindi in realtà è una persona, si chiama Ima, che è la protagonista, che vive questo essere un ponte fra le due culture e voler essere da tramite tra donne che sono soggetti deboli e la cultura italiana e le istituzioni italiane che spesso non accolgono quanto dovrebbero. E senti, questo ritratto di 50 persone con le quali hai interloquito, che quadro viene fuori? Che impressione ti sei fatta? Questo non l'ho seguito direttamente io, perché sono in ricerca di, di differenza donna, però quello che posso dire sicuramente, quello che denunciano tutte le donne che sono state intervistate nella ricerca sociale, è in pratica una mancanza da parte delle istituzioni di politiche di accoglienza per queste donne. Cioè tutte denunciano il fatto che non sanno a chi riferirsi nel momento in cui subiscono una violenza, una discriminazione. E questo infatti è legato ad una campagna che come Zalab e assieme a Differenza Donna abbiamo deciso di lanciare, che è Che Cosa Chiedi? Si chiama questa campagna, ed è proprio una campagna web in cui chiediamo a più persone possibili di dare un contributo con un messaggio video o fotografico per dire la sua alle istituzioni, affinché ci sia una maggiore attenzione alle politiche femminili nelle scelte legate all'integrazione. E questa campagna poi verrà proprio portata alle istituzioni per far sì che insomma ci sia un'attenzione diversa. Senti Sara, qual è il tuo percorso cinematografico e poi come hai iniziato questa collaborazione con Zalab? Allora, io sono una documentarista e montatrice, diciamo che divido la mia professione nel lavoro di montaggio, curo montaggio cinematografico, e però oltre a questo seguo un percorso di d'autore autonomo. Sì. E ho iniziato anni fa avvicinandomi al cinema del reale e al racconto documentario, e abbiamo fondato Zalab assieme e con altri soci documentaristi, e da lì praticamente la situazione è cresciuta. Siamo nati parlando all'inizio di video partecipativo, quindi di dare la possibilità a persone che normalmente non hanno la possibilità di raccontarsi con il mezzo audiovisivo di utilizzare il mezzo per denunciare una propria condizione, una propria marginalità geografica o sociale. E da allora con Zalab realizziamo vari tipi di documentari sociali che hanno sempre una grande interesse alle persone, cioè le persone sono i soggetti che vivono una certa realtà, che raccontano la propria realtà e che utilizzano in qualche modo il sistema audiovisivo per raccontare al mondo quello che vivono. Quindi un cinema diretto, un cinema addosso a chi vive quotidianamente una certa situazione. E conoscendo l'attività che stiamo facendo con l'audiovisivo, Differenza Donna mi aveva contattato e siamo riusciti a incrociare questi due progetti: da un lato le schegge di Già, che sono questi corti documentari legati a tematiche sociali che stiamo lanciando sul web, e da un altro lato la campagna di cui parlavo prima. Sì. Di Differenza Donna sulla percezione delle donne marocchine in Italia. Ecco, a proposito di questa scheggia e del progetto della campagna a questa legato, volevo chiederti se diventerà poi qualcosa di più articolato questo piccolo questo corto documentario. Guarda, il corto documentario per ora rimane così, non c'è un progetto di farlo diventare un lungo, per dire. Quello che invece si sta facendo è proprio utilizzare il corto per creare sensibilizzazione, e quindi la campagna che dicevo prima, che permette poi a tutti, a chiunque sia adesso ad ascoltare questa nostra chiacchierata, a chiunque sia a casa, a chiunque abbia l'occasione di andare sul sito nostro, su www.zalab.org, può lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne. Questi messaggi verranno raccolti e nella giornata internazionale per la donna verranno poi presentati alle istituzioni. Quindi questo lavoro in particolare è proprio finalizzato ad una campagna di sensibilizzazione sulla tematica della violenza della donna, che è sempre più presente in Italia. Bene, bene. Sara, io ti ringrazio, ci risentiremo per le prossime novità Zalab, che stiamo seguendo con particolare attenzione. Un abbraccio. Grazie a te, buona giornata. Ciao ciao. Sara Zavarise, regista del cortometraggio Nuove cittadine, sul sito di Zalab.org. Per contattarci l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Gianfranco Rosi, che bello averti di nuovo qui. Buongiorno. Come ciao, stai? Ciao. Bene, grazie. Perché l'altra volta ci siamo persi per vicissitudini. Bello. Temevo, mi senti bene? Sì, sì, temevo anche per questa volta, invece ce l'abbiamo fatta. Allora, Gianfranco Rosi, regista del documentario Sacro Gra, vincitore del Leone d'Oro all'ultima mostra internazionale del cinema di Venezia, è uscito in sala il giovedì 19 settembre scorso, prima settimana, e il raddoppio delle copie in sala, giusto Gianfranco? Sì, raddoppio delle copie, mi dicono che siamo primi nel rapporto copie, se non mi intendo bene la cultura come funzioni, però sono un distributore felicissimo, siamo primi in classifica, abbiamo addirittura superato i colossal americani tipo Rush, eccetera, per cui grande riconoscimento al film da parte del pubblico. Sì, sì, per noi è stato un piacere perché ti seguiamo da tempo, insomma, non sei uno sconosciuto e quindi sapevamo. Io avevo 20 anni di lavoro, ho iniziato con Boatman, Bilossilevo, Sicario, e questo sì, quindi è un percorso lungo. Senti, e per quest'ultima tappa di Sacro Gra, in origine c'è un saggio di Renato Nicolini, Una macchina celibe, giusto? C'è un saggio di Renato Nicolini, c'è un incontro molto importante con Renato Nicolini, perché Renato doveva diventare uno dei protagonisti del film, era così il filo rosso che potesse riunire la complessità del raccordo anulare e portarla su un'altra dimensione. Poi purtroppo io feci con lui un giro di raccordo quando lo incontrai la prima volta, andai a casa sua e lui immediatamente mi disse: ma andiamo sul raccordo. E con il mio van e il mio aiuto regista Roberto Rinalduti ci siamo messi in macchina. Io ho avuto l'intuito, il desiderio, l'istinto di filmarlo e abbiamo percorso esattamente un giro di raccordo anulare dove lui così ha dato sfogo alla sua capacità di aneddotica, di filosofo, di saggista, di architetto, di uomo meraviglioso, di poeta, e abbiamo fatto un giro di raccordo dove è venuto un senso di astrazione meraviglioso da questo luogo. Io lì ho capito il film soprattutto quando, poi riportandolo a casa, lui mi ha sussurrato che questo cerchio doveva, nel mio film doveva aprirsi e diventare una retta infinita, mi disse. Quindi proprio una trasformazione totale di un luogo. Poi purtroppo Renato è mancato e il film è dedicato a lui. Avendo perso questa voce necessaria per far sì che prima avesse un senso, ho dovuto togliere tutti i riferimenti possibili a una geografia e a un percorso geografico, ecco. Quindi è diventata poi il film, penso il raccordo sia diventato qualcos'altro, una specie di mappatura ideale, no? Una specie di luogo della mente, ecco, più che un non luogo, come spesso dicono. Certo. Tra l'altro stamattina ho vissuto l'esperienza di una lunga coda sul raccordo anulare. Senti, però penso che paradossalmente anche il raccordo nel film esce fuori come così, un personaggio positivo, ecco, non così negativo. Sì, sì. Abbiamo superato anche la paura del raccordo. Infatti dico sempre, io ho iniziato a amare Roma attraverso il raccordo anulare, attraverso questi anni che ho passato su questa muraglia che circonda Roma per 67 chilometri, ho iniziato ad amare la città, quindi spero che i romani inizieranno ad amare il raccordo attraverso il film, questo sarebbe molto bello, oppure percorrerlo in maniera diversa, spingendosi anche oltre l'uscita che di solito uno è obbligato a fare ogni giorno, no? Quindi oggi esco all'uscita successiva e mi perdo. Senti Gianfranco, come mai questo riferimento alla sacralità nel titolo? La sacralità intanto all'inizio era un po' un gioco, no? Il Sacro Graal, eccetera. Sì. Poi dopo è rimasto il titolo, c'è stato un momento in cui pensavo di cambiarlo il titolo, poi ho continuato a girare, ho capito che invece il raccordo era un personaggio, ma era sempre un mistero per me, un mistero per il film, un mistero per i personaggi e le persone che ho incontrato. Quindi la parola sacro poi sottolinea il mistero, ecco, proprio in senso laico, no? Non chiaramente in senso religioso. Quindi non so, alla fine ci si affeziona a un titolo, sì, quindi è rimasto Sacro Graal, che trovo sia il titolo giusto per il film. Sì. Senti, per chi ci ascolta ed è interessato, come lo descriveresti in breve, così come storia? Ma intanto, sai, la scoperta che ho fatto, non tanto mentre giravo il film, perché poi io quando giro tendo a... All'inizio era proprio l'idea di creare un vuoto, no? Sì, intorno a questo luogo. Quindi per me era proprio svuotarlo di tutto, e non ho mai fatto troppe ricerche, anche se poi all'inizio per 8 mesi non ho girato un fotogramma, mi ha accompagnato Niccolò Bassetti, che da cui nasce l'idea del film, un paesaggista urbano che ha percorso il raccordo anulare a piedi per zigzagandolo per 300 chilometri in 20 giorni, quindi nasce da questa esplorazione di una persona da sola sul raccordo anulare, e poi da lì nasce l'idea di un film a cui mi è stato passato proprio un bagaglio enorme di informazioni, e poi io ho dovuto creare il vuoto attorno a questo, quindi per me era proprio svuotarlo di tutto e riempirlo con piccole storie, piccoli frammenti, piccoli incontri, frammenti di vita. E poi finito il film, nei vari incontri che facevo, anzi addirittura dopo Netflix, poi i film si capiscono dopo che uno li ha consegnati, no? Adesso inizi a capire che film hai fatto, perché all'inizio è tutto istinto e improvvisazione e caparbietà e pancia, no? Sì. E poi dopo, una volta finito il film, dalle critiche, dalle letture, chi incontra, cioè, ognuno ti dice qualcosa e inizia a comporre un nuovo puzzle. E qualcuno mi ha raccontato che attorno al raccordo anulare vivono 3 milioni di abitanti, sono 3 milioni di abitanti, quindi all'interno e all'esterno del raccordo anulare ci sono 3 milioni di persone, e quindi quella è un'idea impressionante, un numero impressionante, vuol dire che quindi la nuova Roma è il centro di Roma, il raccordo è al centro di 3 milioni di persone, quindi questa è la nuova Roma, il futuro possibile di una città, ormai si è spostato, non è più all'interno delle mura aureliane, ma è all'esterno, perché se pensi all'interno delle mura aureliane vivono 150.000 persone e all'esterno vivono 3 milioni di persone, cioè veramente così è un ribaltamento. Senti Gianfranco, per capire che Roma che vive attorno al raccordo anulare, quindi è la nuova Roma, la nuova Roma, anche se è una Roma invisibile. Sì. Perfetti ha detto in maniera molto simpatica e divertente, dice adesso dobbiamo scoprire una nuova via Veneto sul raccordo anulare, oppure raccordo anulare come via Veneto. Una provocazione massima. Ho sentito anche che il sindaco dice facciamo un giorno tutti a piedi sul raccordo anulare. Senti, per individuare i protagonisti del tuo film e poi per entrarci in contatto e per creare un rapporto, ecco, quanto tempo hai impiegato? Prima per scegliere quali fossero e poi per familiarizzare. Beh, alcuni personaggi mi sono stati consegnati da Niccolò Bassetti, sono l'anguillaro, il palmologo. E poi, quindi quelli erano proprio luoghi molto precisi, uno sotto il ponte che porta alla via del mare, su sul raccordo, sotto il raccordo anulare, l'altro prima porta dove vive il palmologo. Quindi questi erano proprio due luoghi molto importanti, sì, perché si affacciavano sul raccordo, uno sotto raccordo e l'altro a pochissimi metri del raccordo anulare. Quindi questi due personaggi li ho così ricevuti in eredità dal viaggio di Nicolò, e poi il resto è arrivato da un incontro all'altro. Il personaggio ti porta in un luogo, conosce altre persone, come una catena che si sviluppa di relazioni, no? Quando tu incontri una persona è come l'amicizia nell'arco del tempo: incontri una persona per caso, per cui la persona diventa parte della tua vita, è il caso di necessità. Però c'è stato sempre un lunghissimo processo di avvicinamento, di conoscenza, ecco, e di frequentazione. Il palmologo l'ho frequentato per 2 anni, abbiamo parlato di tutto per 2 anni, tranne che di cinema. E poi a un certo punto un giorno mi sono letteralmente trovato nella sua oasi, perché è un'oasi, una specie di microclima che lui negli anni ha coltivato letteralmente, e così ero testimone di questa catastrofe dei punteruoli rossi che avevano invaso le sue palme. Quindi praticamente quella storia inseguito per quasi 3 anni si è risolta e si è sintetizzata in 40 minuti di ripresa, e quella era la sua storia, la sua verità, era il suo momento che lui poteva raccontare. Infatti lui dice spesso, in maniera anche divertente, dice: io sono Francesco De Santis, ma nel tuo film sono il palmologo, no? Quindi Francesco diventa un personaggio all'interno di un film, è lì che la realtà si trasforma in qualcos'altro, che il documentario diventa cinema, paradossalmente o volutamente. Senti Gianfranco. Pronto? Sì, ti sento, sì. Per la prima volta hai messo su una squadra, perché sei abituato a lavorare da solo. Ecco, com'è stato? Sì, questo è molto importante. Durante il ripreso ho sempre lavorato da solo, perché per me è fondamentale creare questo rapporto di intimità con quando giro, e quindi io sono operatore e suono, faccio tutte e due le cose, quindi quando giro per me è importante essere solo. Però sono stato affiancato per i primi mesi appunto da Nicolò Biassetti, che mi ha portato letteralmente in giro sul raccordo, mi ha fatto scoprire questo luogo e mi ha fatto anche innamorare di questo luogo. E poi ho viaggiato a lungo con il mio aiuto alla regia, che è Roberto Rinalduzzi, con cui veramente grandissime chiacchierate, ipotesi, itinerari, filmare soltanto i luoghi, gli spazi, i paesaggi. E poi ho affrontato il rapporto con i personaggi, quello abbastanza in solitaria. Dopodiché c'è stata tutta la fase della post-produzione, intervenuto anche, sono stato affiancato anche in questa parte un po' del periodo di riprese, sicuramente in tutto il periodo del montaggio e della post-produzione, da Dario Zonta, che è il produttore creativo del film, sì, e poi dalla meravigliosa squadra di creativi del suono, all'accordimento di produzione eccetera, quindi un altro gruppo di persone che hanno fatto il montaggio del suono, che è fondamentale in questo film, a parte del suono, del mix, proprio della creatività del suono. E poi siamo arrivati a Venezia, quindi sicuramente affiancato da tante persone. Io ero abituato nei miei film a montarli con Jacopo e nessuno li vedeva prima, invece qui sono stati anche dei confronti, sento, avendo per la prima volta anche un produttore. Certo. Avevo dei doveri altri, no? Che non fossero soltanto il mio film. Gianfranco, io ti faccio i miei complimenti, a me è piaciuto molto il tuo lavoro, e ricordiamolo. E adesso allora le persone devono continuare ad andare al cinema, esatto, a vederlo, perché poi ecco, sul grande schermo un'immagine diventa cinema proprio per magia, sì, no? Sì, quindi sì, questo film visto sul grande schermo ha tutto un altro, tutta un'altra emozione, io penso. Però fino adesso sta andando molto molto bene, e sono appena tornato da un giro nelle varie città italiane, dal nord-est a Torino, Milano, Bologna, Emilia eccetera, ed è meraviglioso vedere come le persone che non conoscono il raccordo, non conoscono Roma o conoscono un'altra Roma, riescano a identificarsi e anche a commuoversi spesso in questo film, e anche a divertirsi, perché poi sì, ci sono dei momenti del film che io penso siano molto divertenti. Tra l'altro, per chi è a Roma c'è la possibilità di oltre che a vedere il tuo documentario, di incontrarti e parlare con te, perché domani, se non sbaglio, sarà il nuovo Cinema Aquila qui a Roma. Domani no, questo non lo sapevo, che io lo presento, cioè, però probabilmente mi è sfuggita la cosa. Ho visto sul giornale, pensa. Adesso lo verificherò. Se così è, ci sarò sicuramente. Se questo fa parte dell'itinerario, spesso non so nemmeno dove. Mi chiamo e dice: ah, devi fare questo, devi andare lì, a Torino, cosa, Bologna. E so che stasera sono a Napoli, lì ci arrivo. Parto alle 4:45, quindi vi ascolto a Napoli. A Napoli in streaming, magari sì, dal computer ci possono seguire. Stasera alle 8 sono a Napoli. Bene. E mi incontrerò con il napoletano, che mi dicono che la sala più frequentata è il numero 1 in Italia come frequentazione a Napoli, quindi meraviglioso. Bene, bene. Anche i napoletani hanno. Si identifica con il raccordo anulare di Roma, e allora hanno la Vesuviana, no? Questo cerchio che circonda tutto il... Gianfranco, è stato un piacere, e a sentirci presto. Grazie, alla prossima volta. Ciao, ti abbraccio. Ciao, grazie. Gianfranco Rosi, regista del documentario Sacro Gra, vincitore del Leone d'Oro all'ultima mostra internazionale del cinema di Venezia, uscito in sala giovedì scorso 19 settembre, e da questa settimana ha raddoppiato il numero di copie. Graziano Salvadori, regista di Sarebbe stato facile, in uscita oggi nelle sale, oggi giovedì 26 settembre. Graziano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Benvenuto a voi e grazie di avermi chiamato, grazie. Allora, sono sincero, non sono riuscito a vederlo il tuo film. Allora, per chi ci ascolta, chiaramente raccontiamo un po' di che storia hai parlato. Dunque, il titolo Sarebbe stato facile, e il titolo è un pochino, racconta un po', nel senso, Sarebbe stato facile, che è la storia di quattro amici omosessuali da sempre, che vivono in un paesino bigotto, e quindi, essendo un paese un po' bigotto, devono, per non essere scherniti e presi in giro, devono far finta di essere eterosessuali, quindi vanno sempre a giro in coppia, due uomini e due donne. Un giorno in uno di loro viene voglia di avere un figlio, e purtroppo la legge italiana non consente i matrimoni tra persone dello stesso sesso, quindi loro decidono, vabbè, aggiriamo la legge, si sposano in comune, poi faranno tutti gli iter necessari per avere i figli, e chissà se li avranno. Una storia un po' particolare. Com'è partito il tutto, Graziano? È partito una sera a cena a casa mia, io, mia moglie con i bambini e un mio amico gay, e stavamo cenando, i bambini facevano molta confusione, io ho urlato, e loro, non avendo molta confidenza con questo ragazzo, sono rimasti un attimo male. E lui mi ha detto: dice, perché li sgridi? Dice, perché non si capisce nulla. E lui mi ha detto: beato te che li puoi sgridare, io non li potrò mai sgridare, perché non potrò mai avere né figli né una famiglia. Sono rimasto un attimo male, ho detto vabbè, dai, ci scrivo un film, e ho iniziato a scrivere questo film. Perché è stato un parto difficilissimo, comunque. Sì. Dici un po' che quali sono, per esempio, le difficoltà principali o maggiori che hai incontrato? Allora, innanzitutto trovare una persona che ti aiuti a girare il film, quindi a farti da produttore, da darti soldi, eccetera. Devo dire che è stata abbastanza casuale la cosa, perché io, una volta scritto, ho detto vabbè, io lo giro in qualche maniera, lo giro, non ci sono problemi. Mi sono messo a fare i provini per le comparse, per questi generici, eccetera. È passato un signore che ho conosciuto anni prima, il signore dell'NGM, mi ha detto, dice: oh, so che giri un film, vieni da me, ti do soldi. Ho detto sì, poi vengo. Dopo 15 giorni mi ha richiamato e ha detto: ma li voglio o no? Allora sono andato lì, ci ho parlato, e lui mi ha dato una bella fetta di soldi per girare questo film, tant'è vero che lui è partner di questo film, e quindi ringrazio Stefano Nesi e l'NGM per questa notizia. E come hai deciso il tono, quale sarebbe stato il tono da usare per questo film? Il tono? Il tono, insomma. Cioè, allora guarda, è delicato, nel senso che non offendiamo, anzi è proprio, cioè, chi ha visto questo film, la cosa che mi hanno detto è che è molto delicato nei confronti degli omosessuali. Io ho cercato proprio di mettere tutta la delicatezza possibile e tutta la grazia, ecco. Quindi è un film totalmente a favore, anzi contro, non a favore degli omosessuali, ma totalmente contro l'omofobia, perché come ho detto anche ieri sera all'anteprima, io adesso stanno facendo una legge sull'omofobia che se ti dai uno schiaffo a un gay magari prendi 3 mesi in più. Non si deve fare una legge, solo basta educare le persone e spiegare che esistono le varie famiglie, babbo e mamma, poi ci sono le famiglie allargate, che se ti ricordi 20 anni fa avere una famiglia allargata era non una vergogna, era un'onta, perché tutti dicevano ah, quello c'ha due babbi, c'ha due mamme, la sua mamma è qui, il suo babbo è lì. Oggi è una cosa normalissima. Allora si dice che esistono babbo e mamma, possono avere famiglie con due babbi e due mamme, e persone che si amano, che possono essere dello stesso sesso, quindi un uomo è un uomo e una donna è una donna. Secondo me basta soltanto educare, piano piano arriveremo anche a far passare questo muro stupido che esiste. Ecco, volevo sapere anche per quanto riguarda la scrittura, la sceneggiatura, sì. Hai lavorato da solo o ci sono stati più interventi? Dunque, io ho lavorato da solo in quasi tutta la sceneggiatura, poi ho chiesto l'intervento di un mio amico che si chiama Mario D'Imporzano, che è uno scrittore e vignettista del Vernacoliere, che ha scritto la parte della chiesa, e devo dire che è una delle parti più delicate del film, una parte dove la chiesa esce non pulita, molto molto più pulita di quello che può sembrare a prima vista vedendo il film. La chiesa esce veramente in maniera fantastica, e anzi invito tutte le persone di chiesa, soprattutto i preti, i vescovi eccetera, ad andare a vedere questa bellissima cosa. Senti, in parte la risposta è già in alcune cose che mi hai detto, perché la curiosità sì. Rispetto al tema del matrimonio omosessuale, ripenso però alle battaglie di qualche decennio fa controculturali rispetto all'istituzione matrimonio. Però tu mi hai parlato certo. Anche di desiderio di diventare genitori e poi di famiglie allargate, quindi un po' qui sta anche la risposta. Ecco, volevo sapere rispetto al rito, all'istituzione matrimonio, uno pensa sì. Dal diritto alla diversità si passa al diritto alla normalità. Ecco, volevo capire bravo. Un po' meglio questa pulsione, ecco. Sì, allora io penso che una persona che sia omosessuale o eterosessuale è uguale, perché non ci sono distinzioni, è soltanto un modo diverso di amare. Certo. Io penso che una persona nella vita voglia avere delle cose importanti. Io ho due figli e credo siano le cose, non credo, sono sicuro che siano le cose più importanti per me. Quindi non vedo per quale motivo una persona omosessuale non possa avere certo. Un figlio. Ora, per quanto riguarda una donna è molto più semplice per una donna omosessuale avere un figlio. Per un uomo omosessuale non solo non è semplice, è impossibile. E allora non si può privare una persona di un diritto, perché questo è comunque un diritto, e cercare di farlo vivere sempre con una, cioè gli dici o fai così e hai un figlio, o se vuoi rimanere come sei non avrai mai un figlio. È una costrizione enorme, è una galera, è un ergastolo. Bene, Graziano, allora da oggi nelle sale quante copie sarà disponibile? Per adesso sono pochissime, perché ti dico che ci vogliono tanti soldi, credo siano una trentina di copie in tutta Italia. Però insomma l'importante è che la gente lo vada a vedere, se lo vanno a vedere si divertono come si sono divertiti ieri sera, sicuramente ci saranno più persone che lo vanno a vedere. Bene. E quindi anche più sale a disposizione, va bene? Bene, Graziano, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie, ciao. Graziano Salvadori, regista del film Sarebbe stato facile, in uscita oggi nelle sale. Niccolò Volpati per parlare con noi della campagna di crowdfunding per il documentario La guerra delle onde, storia di una radio che non c'era. Niccolò, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille dell'invito. A partire già da un titolo che è molto suggestivo, raccontaci un po' questa storia. Allora, è una storia in realtà abbastanza lunga e complessa, che anche a noi ha meravigliato quando abbiamo incominciato a conoscerla e ci abbiamo messo un po' a scoprirla. Sostanzialmente è la storia di una radio che ha trasmesso per 20 anni, dal 1950 al 1970, e ha trasmesso clandestinamente da Praga. Era una radio che è stata realizzata da esuli comunisti che sono fuggiti, si sono rifugiati a Praga nel dopoguerra, persone di varia provenienza, però tendenzialmente ex partigiani o militanti comunisti accusati di vari reati, e anche dal post attentato a Togliatti del 48, piuttosto che molti dall'Emilia provenienti dai cosiddetti triangoli della morte o dalla Volante Rossa di Milano. Un accordo tra il Partito Comunista Cecoslovacco e il Partito Comunista Italiano ha permesso la nascita di questa radio. La particolarità di questa radio rispetto ad altre radio, diciamo, tradotte semplicemente in italiano, come Radio Praga, Radio Budapest, Radio Mosca o quant'altro, era appunto che era una radio fatta da italiani, da esuli comunisti italiani, che trasmetteva e veniva ascoltata in Italia. Si calcola addirittura che sia arrivata ad avere ben 6 milioni di ascoltatori, perché in realtà i mezzi tecnologici cecoslovacchi erano decisamente potenti, le onde medie, e quindi in quegli anni si ascoltava benissimo fino in Sicilia, in Sardegna e quant'altro. Stiamo parlando poi di anni dove comunque sia, diciamo, c'era ancora un elevato tasso di analfabetismo, quindi la radio era, la televisione non c'era, e quindi la radio era assolutamente il mezzo di informazione più importante. Mm-hmm. Questa radio poi ha avuto una storia anche abbastanza incredibile e travagliata, nel senso che comunque sia fatta di grandi successi e scoop su alcune notizie, perché nonostante sia nata un po' come una radio di propaganda, una sorta di radio ufficiale del PC, poi nel tempo si è perfezionata, moltissimi sono stati anche i giornalisti dell'unità che sono andati a collaborare per questa radio, lavorando anche da Praga, anche se non dovevano, diciamo, scappare dalla magistratura italiana. E quindi, diciamo, è una radio che ha avuto, per esempio, ha fatto uno scoop mondiale sui fatti di Ungheria nel 56, perché uno dei loro redattori era a Budapest esattamente quando sono entrati i carri armati sovietici, quindi ha fatto una diretta radio di quell'avvenimento, che è stata ripresa anche persino dal Times di Londra, piuttosto che anche altri avvenimenti importanti in Italia, che ovviamente la RAI taceva in quel periodo. Penso al luglio 60, quando furono fatte le dirette anche delle manifestazioni antifasciste di Genova nel luglio 60, o di Reggio Emilia, con poi i morti di Reggio Emilia. La RAI dava al massimo piccolissime notizie di quello che era avvenuto, mentre Radio Oggi in Italia, che trasmetteva da Praga, ma appunto anche con ovviamente tanti corrispondenti dall'Italia, faceva una sorta di quasi di prima diretta radiofonica di un evento e di una manifestazione. Mm-hmm. Particolare poi la storia di quella radio, perché fu chiusa dopo l'invasione sovietica dell'agosto del 68, fu chiusa perché quella radio, diciamo, e chi lavorava a quella radio, gli italiani che lavoravano a quella radio, erano, diciamo, abbastanza legati a Dubček, al nuovo corso della Primavera, e quindi hanno anche ospitato i redattori di Radio Praga, perché anche questa è una cosa abbastanza incredibile. Quando i carri armati sovietici entrarono a Praga il 21 agosto del 68, andarono a occupare ovviamente la sede della radio e della televisione cecoslovacca. Radio Oggi in Italia, che aveva sempre trasmesso e aveva i suoi uffici in quella sede, però era da pochi mesi stata spostata in una villetta in periferia, in una sede a parte. Però i sovietici non lo sapevano e ci hanno messo 12 giorni a trovarlo, e quindi anche quella che fu la cronaca dell'invasione sovietica di Praga fu fatta grazie alle frequenze di Oggi in Italia, anche lo stesso appello di Dubček, diciamo, che poi passa alla storia, quello in cui si sentono le sventagliate di Mitrasotto, viene fatto dagli studi di Oggi in Italia, trasmesso dalle onde delle frequenze di Radio Oggi in Italia. Mm-hmm. Quindi il paradosso un po' di questa radio è quella di una radio che nasce dall'accordo tra due partiti comunisti, quello italiano e quello cecoslovacco, viene chiusa dal Partito Comunista Sovietico e viene poi dimenticata dal Partito Comunista Italiano, perché quello che ci ha sempre colpito anche è stato che nei tanti tentativi di ricostruire questa storia, più volte ci chiedevamo se fosse mai esistita davvero questa radio o se qualcuno ci stesse raccontando delle fantasie, perché nonostante tantissimi, ci sono stati persino interpellanze parlamentari, quasi incidenti diplomatici con la Cecoslovacchia, perché la Democrazia Cristiana, il governo di allora, cercò in tutti i modi, tra virgolette, di ostacolare quella trasmissione. Non ne esisteva in teoria la possibilità, perché stiamo parlando di anni dove c'era ancora il monopolio, non esistevano le radio libere degli anni 70 e quindi era un reato solo trasmettere con quella radio. Nonostante ci fosse stato tutto questo, nonostante 20 anni di trasmissioni, 5 radiogiornali al giorno, gli scoop, chi più ne ha più ne metta, il materiale è praticamente tutto scomparso. Noi ne abbiamo ritrovato tutto sommato casualmente una parte, quando abbiamo iniziato a lavorare a questo documentario in realtà non sapevamo ancora che l'avremmo ritrovato. Senti Niccolò, allora hai detto circa 20 anni, subito dopo il 68 fu chiusa. Volevo chiederti intanto da quante persone era animata, hai parlato anche di 5 cinegiornali, ecco com'era un po' strutturato il palinsesto, e poi se aveva una effettiva indipendenza o comunque invece era sotto la cappa del Partito Italiano. No, diciamo che la redazione era composta sicuramente da meno persone e non giornalisti professionisti, diciamo, appunto, erano soprattutto profughi politici. E poi, siccome la radio assume importanza, incomincia invece ad avere un contributo consistente anche di giornalisti dell'unità, appunto, a Praga, per lavorarci. Questo documentario si articola su 4 testimonianze, anche se poi non sono le classiche interviste davanti a una libreria, di chi comunque bene o male ha avuto a che fare con questa radio, che sono Stella, che vive ancora adesso a Modena ed è stata la speaker di quella radio dalla primissima puntata all'ultima, Aroldo Tolomelli, che purtroppo non c'è più, era un ex partigiano fuggito in Cecoslovacchia appunto dopo l'attentato a Togliatti, perché accusato assolutamente ingiustamente in realtà di una serie di reati, e poi rifiutò tutte le amnistie, ci rimase a Praga fino al 66, quando ci fu poi la revisione del processo e poté tornare. Gli altri 2 testimoni che avevamo trovato sono Alessandro Curzi, che in quanto fu anche responsabile della stampa e propaganda del PC, si occupò anche molto di Radio Oggi in Italia, lui se ne occupava ovviamente da Roma, e poi Carlo Ripa di Meana, perché ha lavorato da giovanissimo come collaboratore dell'unità e quindi scriveva anche dei pezzi che venivano letti in radio, e poi perché fu mandato in Cecoslovacchia perché divenne responsabile dell'Organizzazione Mondiale degli Studenti, che aveva sede a Praga, e quindi ebbe poi in parte anche rapporti con quella che era la redazione degli esuli comunisti che animavano Oggi in Italia. E Carlo Ripa di Meana, ammetto la mia ignoranza, anche io non lo sapevo fino a poco tempo fa, fino al 1956 è stato comunista, poi divenne socialista, poi verde, poi eccetera eccetera. E per rispondere alla tua domanda, appunto, la radio utilizzava moltissimo le fonti che arrivavano dall'Italia e quindi dall'unità, per cui quotidianamente fondamentalmente l'unità forniva, era quasi l'agenzia di stampa ovviamente della radio, però aveva anche le agenzie di stampa internazionali, e soprattutto credo che la sua forza fosse quella di utilizzare moltissimo come corrispondenti anche quelli che erano gli operai italiani in giro per l'Europa, piuttosto che nelle miniere del Belgio, o ovviamente presenti in Italia. Quindi fu una cosa per quegli anni sicuramente particolari, perché noi per esempio abbiamo ritrovato tra le pochissime cose, però in questo archivio che abbiamo trovato a Praga, anche dell'audio di un operaio della Fiat Mirafiori che raccontava quali erano le condizioni del lavoro negli anni 50 dentro gli stabilimenti della Fiat Mirafiori e cose di questo tipo, piuttosto che i minatori italiani nelle miniere del Belgio. E questo sicuramente è stato uno dei motivi del successo e del seguito che aveva la radio. Poi chiaramente la radio era la radio ufficiale del PC fondamentalmente, quindi aveva una discreta indipendenza probabilmente rispetto alla Cecoslovacchia, anche perché questa particolarità di essere fatta soprattutto all'inizio da persone che erano in clandestinità, protette sì dal governo cecoslovacco, ma a cui il governo cecoslovacco appunto ha dato una falsa identità, un secondo nome, e che quindi richiedeva di condurre una vita da semiclandestino, di avere pochi contatti anche con i ciechi il più possibile. E quindi diciamo questo gruppo anche di emigrati italiani fondamentalmente stava molto tra di loro e aveva rapporti con il Partito Comunista Italiano e con l'Unità, quindi forse anche questo spiega un po' la particolarità di una radio che sì è stata molto legata al Partito Comunista Italiano, un po' meno a quello cecoslovacco, tant'è vero che appunto dopo l'invasione non era particolarmente allineata sulle posizioni post invasione, però indubbiamente è stata una radio che per il Partito Comunista Italiano è stata la radio di riferimento finché è esistito. Anche quello fa riflettere sul fatto che poi ne abbiano cancellato in tutto e per tutto la memoria, perché sì. Il Partito Comunista Italiano non ha conservato nulla di quell'esperienza bobine o quant'altro. Il poco che è stato trovato appunto casualmente è in un archivio secondario fuori Praga, dove siamo entrati per la prima volta, e anche sicuramente era un qualcosa di emozionante perché ci siamo entrati con Stella. Il documentario si articola appunto su questo viaggio che Stella rifà a Praga, cioè l'abbiamo riportata a Praga nei luoghi dove ha vissuto per tanti anni, e anche dentro questo archivio dove ha ritrovato centinaia, migliaia di testi dattiloscritti che lei batteva a macchina, che gli venivano dettati da Roma, dall'Unità, e pochissime cose audio. Però è stato anche un momento emozionante, nel senso che nessuno di noi ovviamente se lo aspettava. Siamo andati a Praga senza sapere se avremmo trovato questo materiale. Senti Niccolò, in chiusura ci dai le indicazioni per partecipare a questa campagna di finanziamento del documentario? Sì, la campagna di finanziamento è fatta attraverso Produzioni dal Basso, perché il documentario è già girato un po' di festival, è stato anche mandato dalla televisione ceca, ma ovviamente non dalla RAI e non in Italia. E quindi abbiamo deciso di lanciare questa campagna con Produzioni dal Basso. Abbiamo l'obiettivo di raggiungere 500 prenotazioni, siamo a più di metà e abbiamo un poco più di un mese, quindi siamo al rush finale. La prenotazione prevede diciamo un impegno di acquisto di 12 euro, incluse tutte le spese di spedizione. Nei 12 euro viene fornito e spedito appunto poi all'indirizzo che uno lascia una copia di questo documentario che si chiama La guerra delle onde, storia di una radio che non c'era, e un libro che è una parte diciamo che va a integrare il lavoro del documentario, con alcuni saggi inediti, alcuni pezzi invece di libri che sono recentemente usciti, da quello di Massimo Recchioni sul comandante della Volante Rossa, che ha una parte anche dedicata alla radio oggi in Italia, Ludovico Testa e altri, e quindi raccoglie un po' tutto quello che in questi ultimi anni è venuto fuori su questa esperienza. Il libro più DVD appunto 12 euro, ci si prenota attraverso il sito di Produzioni dal Basso, ci si impegna per il numero di copie che si desidera, e quando verrà raggiunto l'obiettivo, si spera entro fine ottobre, delle 500 copie, solo allora chi si è impegnato dovrà pagare e gli verrà spedito a casa la copia. Per fare tutto, la cosa migliore è andare sul sito www.laguerradelleonde.it, c'è il link a destra sul documentario, sul sostegno a questa campagna. Cliccando lì si apre la pagina del sito di Produzione dal Basso per prenotare le copie. Stiamo anche facendo diciamo una promozione tra virgolette speciale per circoli ampi, associazioni, centri sociali e chi più ne ha più ne metta, a cui chiediamo di prenotare una decina di copie, che questo consente a noi di raggiungere questa mitica soglia delle 500 copie e quindi a ottenere il risultato che vorremmo. E al tempo stesso poi ovviamente essere disponibili a qualunque proiezione pubblica e collettiva, dove chi ha prenotato una decina di copie potrà rivendersi le copie che ha prenotato ai presenti, e in questo modo magari non rimetterci ovviamente neanche una lira e così saremo tutti felici e soddisfatti. Il tutto si fa sempre sul sito www.laguerradelleonde.it. Benissimo Niccolò, io ti ringrazio e a risentirci per le prossime novità. Grazie mille a voi. Ciao. Ciao. Niccolò Volpati sulla campagna di crowdfunding per il documentario La guerra delle onde, storia di una radio che non c'era. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15. È con noi Gael Armentano per parlarci della collana Il tuo anno, presentata alla Mostra del Cinema di Venezia. Gael, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti. Di cosa si tratta? Cos'è questa collana? Allora, questa collana è un'iniziativa nata dall'Istituto Luce e Rai Cinema, dalla divisione Home Video di Rai Cinema, di realizzare dei DVD con lo storico materiale del Luce su i singoli anni, un po' diciamo un effetto a Marcord, un po' quello che ci succede tutti a fine anno, no? Di ritrovarci davanti alla televisione e fare un punto di tutto quello che è successo nell'anno, grazie diciamo al fantastico archivio del Luce che negli anni 60 aveva veramente materiali alcuni ancora inediti sia nazionali sia internazionali. Quindi un DVD di 32 minuti che ripercorrono diciamo i più grandi avvenimenti dell'anno, ma storia, costume, società, moda, sia italiani sia nel mondo. Affiancato a questo, volendo dare diciamo 60 minuti di emozioni, quindi non 30, abbiamo realizzato un CD musicale con le 10 canzoni più belle di ogni anno. E quindi diciamo un regalo, perché questa è un po' la nostra idea, che puoi fare a un parente, un amico, a te stesso se sei di quell'anno, per darti ecco un po' di ricordi e di emozioni sugli anni. Abbiamo realizzato adesso diciamo tutti gli anni 60, quindi dal 60 al 70, 11 DVD, e in prospettiva vediamo insomma di fare, perché abbiamo avuto richieste soprattutto a Venezia diciamo agli anni 50, perché chiaramente insomma siamo copriamo solo ecco un decennio adesso. È un'iniziativa che era stata fatta anche in altri paesi, in Germania, dove sono stati fatti su tipo 50 anni, quindi proprio tutta la storia della Germania dagli anni 30 agli anni 90, sì, lì. Sì. E quindi è un'idea che ci piaceva e che abbiamo realizzato, che abbiamo presentato a Venezia, che è sempre una vetrina molto così aperta, e dando il tema degli anni 60, che è un tema ancora molto diciamo attuale, devo sì, dire insomma sì. anni dove poi insomma c'è stato proprio il boom economico, quindi sì, diciamo, dagli ultimi strascichi del boom economico iniziato a fine anni 50 fino insomma al clima di trasformazione di che insomma caratterizzò sia il mondo operaio che studentesco. Sì, infatti il primo DVD realizzato, che era il prototipo da cui poi è nata l'idea, effettivamente è stato il 63. Quando l'abbiamo visto è veramente incredibile, perché insomma in un anno quello che è successo è diciamo da Kennedy a Martin Luther King al Papa, quindi è interessante, perché tutti noi chiaramente sono avvenimenti che conosciamo, ma raggrupparli, focalizzarli, metterli in sequenza è forse una cosa che non abbiamo diciamo occasione spesso, no? di vedere. Due aspetti in particolare mi sembrano degni di attenzione: uno è che sono utilizzati anche rispetto al grande archivio di immagini del Luce, anche immagini inedite, e dall'altro in questo parallelo rispetto all'attualità sui soldi, perché sì, si parla per esempio dei salari dei lavoratori, per cui ci si rende conto che i salari ad esempio erano più alti, erano più basse le spese per insomma i bisogni bisogni primari erano più alti invece per quanto riguarda i beni di lusso, o che allora insomma erano l'automobile, quindi la benzina, gli elettrodomestici, e mi sembra un interessante parallelo. Sì, è stato fatto, diciamo, appunto un lavoro di attualizzazione che è interessante per capire appunto qual era il nostro stile di vita e anche il nostro livello di vita, no? Negli anni 60, quindi diciamo confrontando i salari d'allora e i costi di allora, ci si rende conto che effettivamente si viveva meglio, nel senso che ci si poteva permettere una casa con uno stipendio o una macchina, diciamo, di un certo tipo più facilmente, e che adesso magari appunto con salari che sembrano paragonati più alti in realtà ci si può permettere di meno, insomma. Sì, questo sì. Parallelo è alla base, diciamo, dell'inizio di tutti i DVD, un po' per così riportarci e farci capire come eravamo e come siamo. Sì, sì, sì. Sia dal punto di vista economico, sia poi appunto gli aspetti forse anche un pochino più di costume, di società, insomma. Certo. e di storia, chiaramente. Vediamo che i governi continuano a cambiare, e, insomma, è interessante capire che insomma è dall'inizio della nostra storia un po' che è così. Sì, sì. Senti Gael, per avere informazioni su questa collana ci dai dei riferimenti internet? Ma no, potete in realtà sul sito 01 è in restyling, quindi in questo momento non è online fino a fine mese. A fine mese ci sarà il sito 01distribution.it in cui ci saranno i riferimenti. È un DVD però che chiaramente si può comprare anche online, quindi su tutti i siti di vendita di DVD online, mentre tutti i materiali possono essere, diciamo, visionati, anche le informazioni, sul sito dell'Istituto Luce. Benissimo, io ti ringrazio Gael, a risentirci per le prossime novità. Un abbraccio, saluto. Ciao, ciao. Ciao. Gael Armentano sulla collana Il tuo anno, presentato al Festival del Cinema di Venezia. In collegamento con Federico Chiacchiari di Sentieri Selvaggi su Postproduzione, il cinema del futuro è oggi. Una serie di seminari, incontri, workshop, film, contest, storie del cinema nella sede di Sentieri Selvaggi a partire dal 25 settembre, quindi da ieri fino al 10 novembre. Federico, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno a tutti. Di cosa si tratta? Mi sembra un programma un po' poderoso. Ma dunque, in realtà noi abbiamo un po' riunificato tutta una serie di eventi che di solito facciamo in un tempo un pochino più ampio. Sì. E che quest'anno invece abbiamo voluto concentrare, come dire, per noi che ci occupiamo di cinema ci sono i festival che fanno un po' da riferimento, quindi diciamo a cavallo tra i festival di Venezia e quello che poi è il Festival di Roma. E mettendo assieme un po' tutte quelle che sono le attività che come Sentieri Selvaggi facciamo ormai da diversi anni, insomma, quindi ci occupiamo di cinema un po' fino a 360 gradi. La novità è quella di come dire, avere un tema comune, no? Un unico contenitore all'interno del quale poi sviscerare le diverse pratiche, no, che facciamo noi come appassionati, insomma, e gente che lavora nell'ambito del cinema. E quindi da qui mettere assieme delle proiezioni, concorsi, borse di studio, storia del cinema, oppure anche workshop, incontri con ospiti, seminari di approfondimento, ecco, mettere assieme più cose legate da questo filo conduttore che è un po' il tentativo che noi abbiamo chiamato post-produzione, mettendo il post tra parentesi, quindi sì, non sappiamo sì. Nel cinema la post-produzione è quello che viene dopo il set, no? Quindi che nel cinema di oggi è diventato sempre più importante, sempre più significativo. Noi l'abbiamo messo tra parentesi perché in realtà vogliamo ragionare non soltanto sull'importanza sempre maggiore che la post-produzione, no, con gli effetti speciali, quella che chiamiamo la sparizione dei set, sempre più hanno nel cinema di oggi, ma anche per ragionare in generale un po' sul futuro del cinema, quindi cioè su quello che sarà anche il modo, come sta cambiando, come già è cambiato il modo di produrre cinema e immaginario oggi. E quindi da questo punto di vista è un ragionamento più ad ampio spettro su quello che su quello che può essere il cambiamento del linguaggio, ma anche del modo di produrre, del modo di distribuire e soprattutto nel modo di fruire cinema, certo, oggi. Certo, certo. Federico, a quanto ho capito, a parte i workshop, il resto è fruibile gratuitamente tra incontri e seminari e proiezioni? Esattamente, tutti gli incontri, seminari, proiezioni, sono tutti quanti ad ingresso gratuito, si fa una tessera qui da noi che è comunque gratuita. A disposizione dei workshop che comunque sono offerti a un costo ridotto rispetto a quello che è la nostra quota associativa, sì. Quota di iscrizione classica, attualmente costeranno, questo solo per i workshop che fanno parte di questo pacchetto, la quota di iscrizione è di 180 euro, sono 2 giorni con un professionista del cinema in cui noi andiamo a ragionare su fondamentalmente su degli aspetti che riguardano appunto la produzione, quindi parleremo di produzione cinematografica e questo lo faremo con Gianluca Ercopinto, che è uno dei produttori indipendenti italiani più importante. Sì. Poi parleremo di produzione di un documentario, lo faremo con i nostri docenti Giovanni Bruno e Massimo Latini, che sono 2 documentaristi che fanno questo mestiere da anni e che sono tra i più importanti dei nostri docenti. E poi invece faremo anche a novembre, all'inizio del mese, invece questo workshop sulla produzione delle web series, perché oggi il cinema passa attraverso appunto la sala cinematografica, la televisione, ma anche il web, quindi già dallo scorso anno noi abbiamo un workshop specifico sulle web series. E poi abbiamo invece dei workshop che si occupano più in maniera tecnica della post-produzione, quindi parleremo di come si lavora con software come After Effects, e c'è un workshop dedicato, oppure sulla color correction. No, queste sono un po' le aree su cui cerchiamo di approfondire con dei workshop che si tengono appunto in un weekend, nell'arco di un weekend. Ecco, un po' di elementi già ce li hai dati. Ecco, volevo chiederti l'arco di questo mese e mezzo più o meno come è strutturato rispetto alla settimana. Ma diciamo che gli appuntamenti sono 2 o 3, dipende un po' dalle settimane, nel senso noi il mercoledì, ieri abbiamo iniziato con un omaggio a Michel Gondry, il mercoledì è la serata dedicata a questa che è la rassegna che facciamo ormai da qualche anno, che si chiama Now Pleasure, dove noi presentiamo degli assoluti inediti, film che non sono mai usciti né spesso mai usciranno in Italia in nessuna forma, quindi non né al cinema né in televisione né nell'home video. Sono degli straordinari inediti che noi abbiamo la fortuna di vedere nei festival, come redazione di Sentieri Selvaggi abbiamo la fortuna di vedere nei festival cinematografici e che amiamo condividere insomma con chi vuole vederli con noi, insomma ci occupiamo anche di sottotitolarli e farli vedere. E ieri abbiamo iniziato, quindi il mercoledì è il giorno di queste proiezioni di inediti. Ieri abbiamo iniziato con questo omaggio a Michel Gondry. La prossima settimana ci sarà Peter Chan, insomma, poi sul sito di Sentieri Selvaggi troverete tutto il programma, comunque ci sarà Christophe Honoré, quindi andiamo dal cinema asiatico al cinema francese, al cinema americano con Philip Kaufman e così via, fino a chiudere con un bellissimo omaggio il 6 novembre che faremo a Jonathan Demme, che è un po' anche un omaggio al fatto che Jonathan Demme parteciperà al Festival di Roma qualche giorno dopo. Il venerdì è il momento diciamo degli incontri e dei seminari, quindi diciamo il momento in cui noi ci mettiamo seduti a tavola a chiacchierare con gli ospiti che vengono da noi. E il primo ospite c'è proprio domani sera, che è Marco Martani, che è un nostro vecchio amico, ma è uno sceneggiatore, regista, oltre che ultimamente anche produttore della società Westside. E più avanti insomma invece avremo dei seminari più specifici. Il 4 ottobre ad esempio ne faremo uno in cui ci occuperemo un po' dell'aspetto tecnico, cioè di come le macchine e i software stanno cambiando il modo di riprendere e montare il cinema, quindi avremo anche non soltanto delle testimonianze, ma vedremo anche al lavoro delle macchine, quindi potremo, chi è interessato a vedere come funziona un drone o come funziona una GoPro o vuole vedere l'ultima Sony NX900 o l'ultima EOS Canon C100 può venire da noi e vederle provare sul campo degli esperti. Bene. Allora, un po' di indicazioni ce le hai date, anche i riferimenti internet che sono quelli del sito di Sentieri Selvaggi. A questo punto ci sentiamo più in là nel corso dell'anno per altre novità. Molto volentieri, non ne mancano delle nostre parti. Bene Federico, un abbraccio e a presto. Un saluto a tutti, grazie. Ciao. Federico Chiacchiari di Sentieri Selvaggi sul ciclo diciamo di un mese e mezzo su post-produzione cinema del futuro e oggi, seminari, incontri, workshop, film, contest e storie del cinema a partire da ieri 25 settembre fino al 10 novembre nella sede di Sentieri Selvaggi qui a Roma. Bene, avremmo dovuto sentire anche Giancarlo Bocchi in qualità di autore del libro e regista del documentario Il Ribelle, sono in uscita in entrambi libro e DVD, però al momento non è raggiungibile, ci eravamo sentiti poco fa prima dell'inizio della trasmissione. A questo punto cerchiamo di slittare alla prossima puntata, giovedì prossimo che è il 3 ottobre, giovedì 3 ottobre. Per quanto riguarda Visionari per oggi è tutto, i riferimenti li trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce sulla homepage trasmissioni Visionari, trovate gli ospiti di questa puntata e poi le uscite in sala di oggi giovedì 26 settembre e le nostre indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo, la televisione e poi gli altri appuntamenti della settimana, festival, proiezioni e rassegne e poi il link per riascoltare la puntata precedente, le puntate del 2013 e quelle del 2012. Oltre al sito internet della radio c'è anche la nostra pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi è visionari@ondarossa.info.